Chiudiamo con un'anticipazione per sabato 28 e domenica 29 settembre. La nostra città è protagonista con le giornate europee del patrimonio. Patrimonio in cammino, edizione 2024. Conosceremo Deborah Badiali, delegata per i distretti culturali della città metropolitana di Bologna. Corredo poi di intervista con Eva degli Innocenti, che saluto, sempre molto disponibile ai microfoni del Breakfast Club, direttrice settore musei civici della nostra città, che dichiara: dopo la prima edizione dell'anno scorso siamo molto felici della nuova edizione delle giornate europee del patrimonio della città metropolitana di Bologna. Queste contribuiscono al progetto di creazione del sistema museale bolognese metropolitano, ricco patrimonio culturale che è valorizzato dai distretti culturali, dalla messa in rete del territorio, grazie alle numerose e varie attività organizzate per le varie tipologie di pubblico a secondo dei percorsi tematici che permettono ricadute positive dirette sul territorio. Area metropolitana estesa, ne abbiamo parlato nella prima parte di conversazione con Deborah Badiali, che vede il comune di Castenaso con il Museo della Civiltà Villanoviana, il comune di Galliera con la stupenda torre medievale. Ci spostiamo anche sull'Appennino col comune di Monghidoro, che parteciperà con il Museo della Civiltà Contadina, il comune di Pieve di Cento con la Pinacoteca Graziano Campanini, il comune di San Lazzaro di Avena, il Museo della Preistoria Luigi Donini. Avremo in tutte queste sedi neocitate solo alcune, un motivo importante grazie agli appuntamenti, grazie ai percorsi, visite, quello che trova da protagonista arte, cultura, storia per la nostra città e non solo, anche per uno sguardo esteso. Sentiamo allora da Deborah Badiali la prima parte di approfondimento a proposito delle giornate europee del patrimonio 2024. Giornate del patrimonio per quanto riguarda il 2024, patrimonio in cammino. Siamo con Deborah Badiali ed è un esordio, mi pare. Buongiorno Deborah. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. È un esordio, diciamo, è la prima conferenza stampa, è il primo progetto importante che presento come delegata ai distretti culturali della città metropolitana. È anche un testimone importante che raccolgo da Elena Di Gioia, per cui quello di oggi e la presentazione di queste giornate ti vedono me raccontare un lavoro in realtà che è stato frutto di intensi mesi di lavoro della città metropolitana insieme appunto ai vari distretti, e che raccontano un patrimonio molto importante che abbiamo a Bologna città. Ma in questa occasione ci tengo anche molto a valorizzare l'attività che abbiamo come comuni e come territori vasti che circondano Bologna e che ci presenta un mondo meraviglioso. Quali sono i percorsi e soprattutto quali saranno le parole d'ordine di questa edizione? Abbiamo, secondo me, la necessità di far scoprire questo patrimonio, per cui la conservazione è un tema molto importante, ma allo stesso tempo c'è la necessità di aprire a nuovi pubblici e allo stesso tempo far scoprire ogni volta e far incuriosire le persone che entrano all'interno dei musei, che possono essere luoghi chiusi ma anche percorsi che scoprono e che ci fanno scoprire il territorio, no, intorno a noi. Per cui abbiamo la necessità di tenere insieme l'identità che caratterizza da sempre il lavoro di città metropolitana, la forte contaminazione di esperienze, ma anche tutto il tema della contemporaneità rispetto a quelle che sono anche nuove forme tra i laboratori, l'attenzione ai più giovani e le conferenze che tengono insieme appunto un approfondimento ancora più scientifico. Alcune sedi, perché sono veramente tante. Se guardo alla città metropolitana spaziamo tantissimo, andiamo dai territori ad esempio di Anzola con il museo archeologico, poi andiamo più verso Ozzano con i Calanchi, e quindi abbiamo tutta una parte, diciamo, di territorio anche molto diverso, anche molto lontano geograficamente, che si tiene insieme appunto da un obiettivo comune, che è quella appunto della valorizzazione del patrimonio. E questo sarà sabato 28 e domenica 29 settembre, quindi un bel weekend. Un weekend intenso, speriamo che anche il meteo sia dalla nostra, e chiaramente l'invito che facciamo è quello di entrare all'interno dei musei. Saranno tanti, magari per questa edizione non si riusciranno a vedere tutti in queste due giornate, certo, ma sarà un'ottima occasione per iniziare a girare per il nostro territorio o per tornare. grazie a Deborah Badiali, con cui continueremo il motivo di dialogo a proposito di un'attenzione per i più giovani, l'estensione di questi appuntamenti. Ne abbiamo citati alcune per il territorio metropolitano, poi prima di parlare con Eva degli Innocenti ci soffermeremo anche con realtà vicine all'aspetto centrale della nostra città. Intanto Deborah ci parlerà dell'attenzione per un pubblico più giovane. Detto di un'attenzione particolare per i giovani. È fondamentale creare questa idea che abbiamo dei musei come luoghi di conservazione e allo stesso tempo anche di scoperta, no? E di ritorno all'interno delle nostre sedi museali in un tempo, secondo me, che è caratterizzato dalla profonda accessibilità, no? Di contenuti. Pensiamo che col digitale si può trovare praticamente qualsiasi cosa. Ecco, riuscire a creare dei momenti dove le persone, soprattutto fin da piccole, arrivano dentro i musei e trovano anche con la manualità, anche con delle attività interattive, la possibilità di interfacciarsi e di scoprire il patrimonio museale è un momento, secondo me, molto profondo della nostra attività anche politica. E culturale. Alcune collaborazioni che vogliamo sottolineare? Abbiamo a San Pietro in Casale un gioco nel Medioevo, quindi abbiamo nel Museo Casa Frabboni un'attenzione particolare sia per un periodo storico, in questo caso molto spesso, diciamo, bistrattato, no? Dal punto di vista delle idee che abbiamo pensando al Medioevo, e qui lo andiamo a riutilizzare come momento di approfondimento per i bambini. Abbiamo un museo molto importante che è quello della civiltà contadina dell'Appennino bolognese, e anche qui ci saranno delle visite guidate. Citavo prima il museo archeologico di Anzola dell'Emiglia, dove si torna a scoprire la parte di storia del nostro paese con agricoltura, artigianato e commercio. Abbiamo delle attività legate proprio alle visite all'esterno, per cui tra San Lazzaro e Ozzano ci sono dei percorsi all'aperto, e quindi la commistione anche tra dentro e fuori ci consente di tenere insieme questo grande mondo che noi chiamiamo musei, perché all'interno abbiamo una conservazione molto importante di tutte, diciamo, le attività e le storie dei nostri territori. La bellezza del nostro territorio è che è molto variegata, che va dall'Appennino a una pianura d'estensione con una campagna molto particolare, e quindi averne approfondimento grazie a questi punti che sono amplificatori e diffusione di informazione e di cultura è racchiuso in questo weekend, che è portato da diverse collaborazioni, diverse sedi, e che dire, 28 e 29 settembre 2024 ovviamente. Sono giornate importanti, vi invitiamo a seguirle. Ringrazio Deborah Badiali per questa conversazione e presentazione, e ti auguro buona giornata. Grazie mille anche a voi. Cito alcuni appuntamenti in apertura per sabato 28 settembre alle ore 10 al Museo Civico Medievale in via Manzoni, Bologna, Viaggio di Conoscenze, Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente, abbiamo presentato l'esposizione dedicata a Marco Polo, poi al Museo della Beata Vergine di San Luca, passeggiare senza ombrello anche quando piove, beh, fin dall'epoca del Grand Tour d'Italie. Museo Civico Archeologico, via dell'Archiginnasio, l'Egitto fuori dall'Egitto, nelle medaglie del Museo Civico, al Museo Internazionale Biblioteca della Musica in Strada Maggiore, fonti sonore, sarà una visita guidata, come vi ho detto vi saranno appuntamenti con visite guidate, visite interattive dove il pubblico sarà anche protagonista, spazio per i più giovani, dopodiché l'orto botanico ed erbario alle ore 16, tesoro nascosto, visita guidata per ragazze e ragazzi da 14 anni alla scoperta del gelato, Museum Carpigiani, siamo ad Anzola dell'Emilia, una delle eccellenze bolognesi, opere in viaggio, racconti invisibili e la raccolta Lercaro in via Rivareno 57 a Bologna e tanto tanto di più, consultate da Bologna Musei le varie piattaforme, deve essere facile trovarne informazione che non sia così veloce come il Breakfast Club sta portando, facciamo il possibile per coprire tutti gli spazi e tutte le sedi espositive, in questo caso sono davvero tante. Ho detto di una crescita particolare negli ultimi anni, sicuramente è il merito per alcune figure che hanno dato uno spunto ulteriore per la nostra splendida città e il territorio metropolitano. La direttrice del settore Musei Civici di Bologna, Eva degli Innocenti, conclude riportandoci più vicino appunto a downtown, al centro città, per le giornate europee del patrimonio 2024. Anticipiamo questi contenuti per quanto riguarda il 28 e il 29 settembre anche con Eva degli Innocenti. Abbiamo parlato con Deborah Badiali di un aspetto più periferico, ora ci avviciniamo più alla città, per così dire, a una parte centrale. Intanto buongiorno Eva. Buongiorno. Quindi questa è una seconda edizione di Giornate Europee del Patrimonio Metropolitana e anche cittadina, perché dall'anno scorso è la prima volta che come un settore musei coordinavamo queste giornate a livello cittadino. Un'adesione sempre molto, molto importante che lega sia istituzioni pubbliche che private. Inoltre è un'occasione in effetti per tutte le tipologie di pubblico, persone adulte e bambini e bambine, poter fruire di questo importante patrimonio europeo. Tra l'altro come un tema interessante di patrimonio in cammino quest'anno e che valorizza ancora di più il lavoro che stiamo facendo da un anno e mezzo, anche di fortificare e potenziare il lavoro di messa in rete del territorio attraverso il patrimonio culturale, di collegamento fra l'indoor del patrimonio museale e l'outdoor di un patrimonio molto diffuso e che coinvolge anche il patrimonio naturalistico. Per quanto riguarda essere, come ho detto in precedenza, più vicini al centro, ci sono appuntamenti, approfondimenti riguardanti tutto ciò? Sì, sono tantissime le sedi museali che hanno aderito, anche con i musei pubblici, quindi voglio ricordare la Pinacoteca Nazionale con i Musei Nazionali di Bologna e poi anche lo SMAI, il Sistema Museale di Ateneo, oltre che alle varie fondazioni, anche il Museo Ebraico all'interno di questo programma. E poi è anche un'occasione importante per poter fruire anche con una grande accessibilità economica, perché lo ricordiamo, giornate che si svolgono il 28 e il 29, il 28 apertura apertura straordinaria nei vari siti dalle 20 alle 24 al costo simbolico di un euro. Sì, che comunque se mettiamo insieme tanti euro... Sì, se mettiamo insieme diventa un'entrata interessante. Io ti ringrazio tanto per questa conversazione, buona Grazie giornata. Grazie a voi, buona giornata. Ultimo lavoro di Wayne Shorter prima di passare a un'altra dimensione, grande musicista, qui lo sentiamo al sax soprano con la formazione che poi darà vita al progetto Children of the Light, The Wayne Shorter Quartet, con Danilo Perez al pianoforte, John Patitucci al contrabbasso, Brian Blade alla batteria. Il brano che ha portato commento alle parole di Eva degli Innocenti per questa appuntamento, per questi appuntamenti che vedono la nostra città e non solo con l'estensione al territorio metropolitano per sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, giornate europee del patrimonio. In scena due sedi teatrali che seguiamo attentamente, ITC Teatro a breve, se ci sarà la conferenza stampa visto la condizione meteo, e Teatri di Vita con Stefano Casi che sarà presente assieme alla stagione di teatro consorziale di Budrio, per cui ricco appuntamento in scena per alzare il sipario sui 103.1 e concludere questa terza settimana di inizio 2024-2025, la stagione del Breakfast Club. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani, super mattiniere e super mattinieri, sempre presenti alle ore 7 anche dal nostro sito per ascoltare in streaming e fare colazione con noi, www.radiocittafusico.it, quindi vi aspetto anche attraverso tutti i dispositivi, la app per Radio Città Fusico. Questi sono dispositivi pacifici, in questo caso vi assicuro, che viste le notizie dalle prime pagine e non solo dei quotidiani odierni che mi danno occasione di anticipare la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. E appunto per quest'oggi è tutto, e domani concluderemo i nostri appuntamenti con il Breakfast Club per la settimana in corso. Dal vostro William Piana un caloroso abbraccio, l'augurio se mai verrà di una buona giornata, un caloroso abbraccio e appuntamento a domani. Ciao a tutte, ciao a tutti.